America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Donald Trump dunque è arrivato a Roma, l'Italia, prima tappa al di fuori dell'Arabia Saudita, di Israele, prima tappa fra i paesi industriali occidentali, fra gli alleati degli Stati Uniti. C'è stato appena l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Villa Taverna, ma soprattutto c'è stato l'incontro con col Papa Francesco. In questo momento Trump è già in viaggio per Bruxelles, tornerà in Italia dopodomani per il G7 di Taormina. È dunque una giornata di nuovo molto intensa, perché diciamolo, è stata la visita in Vaticano, l'incontro col Papa, a destare la maggiore attenzione dei media internazionali. Anche perché questa tappa conclude questo viaggio simbolico di Trump nelle tre capitali delle tre principali religioni monoteiste, ed è attraverso il messaggio delle religioni, di queste tre religioni, ciascuna figlia di Abramo, che Trump ha cercato di costruire un ombrello al di sotto del quale si possa costruire un dialogo contro gli estremisti non religiosi, ha detto Trump, gli estremisti della violenza, e un dialogo anche per la pace fra israeliani e palestinesi. La visita ha seguito un rigido protocollo vaticano. Ecco, questo ci dà un po' il senso che non è stata una visita rilassata e semplice, non erano seduti in delle poltrone comodamente l'uno vicino all'altro, c'è stato uno scambio di regali, il Papa ha incontrato anche i familiari e i funzionari al seguito di Trump. Subito dopo l'incontro, oltre a Rex Tillerson, sono entrati anche la First Lady Melania, la figlia di Trump Ivanka, e il genero Kushner. Le due signore erano vestite di nero, con un velo che copriva il volto. Ecco, qui Donald Trump dice: non dimenticherò mai quello che mi ha detto. Questo così una parte del cerimoniale dei saluti, e queste sono le poche parole che abbiamo strappato dall'incontro, perché non ci sono state dichiarazioni pubbliche. Non sappiamo esattamente che cosa si sono detti, non c'è stato un messaggio preciso. Trump ha incontrato il Papa a porte chiuse nella sala della biblioteca dell'appartamento papale. I due si sono seduti a un tavolo di lavoro, l'uno davanti all'altro, il tavolo di lavoro del Papa, un tavolo sobrio, scarno, anche qui c'è un messaggio. Erano sereni, erano sorridenti, questo ci hanno detto i colleghi che erano parte del pool ristretto. Ecco, detto questo, ci hanno anche detto che di fondo si sentiva un'atmosfera di tensione. E questo perché? Beh, in effetti Francesco e Trump vedono il mondo in modo molto diverso su temi come immigrazione, clima, disuguaglianza economica, vendita e uso delle armi, sia sul piano interno che internazionale. Devo dire, è stato significativo un Twitter di ieri sera del cardinale Peter Turkson, che è molto vicino al Papa. Dice: Papa Francesco e il presidente Trump tendono al mondo la mano, al mondo islamico, per esorcizzare la violenza. Il primo offre la pace nel dialogo, l'altro la sicurezza nelle armi. Ecco, non sono certo parole che richiamano l'armonia di un benvenuto in questa visita attesa in Vaticano. Questo per dire che cosa? Che il Vaticano non ha voluto farsi distrarre dall'attacco a Manchester, dalla sfida per la pace, dalle coreografie di questo viaggio presidenziale che, come vi dicevo, ha voluto puntare sulle tre religioni come ombrello comune su cui costruire il dialogo in Medio Oriente come elemento chiave per disinnescare i pericoli del terrorismo e dell'estremismo islamico. Ecco, il Vaticano ha voluto mettere i puntini sugli i, le differenze fra i due ci sono. Ecco, resta il fatto che il momento è drammatico, perché a poche ore da questo orrendo attacco contro giovani bambini a Manchester, la situazione è di grande tensione non solo in Gran Bretagna, in Europa. Theresa May ieri ha deciso di alzare l'allerta terrorismo a livello critico, e questa è una mossa che conferma i timori per un nuovo possibile attacco, che ricorda a tutti noi quanto questo terrore che continua a pervadere l'Europa sia la costante di cui ci si deve occupare in modo responsabile. Occorre mettere le differenze da parte, quelle che ci sono fra Trump e Papa Francesco, e parlare e dialogare, cosa che sono certo che, al di là delle differenze che li caratterizzano, i due responsabilmente, perché sono due persone che sanno qual è il peso della responsabilità in questo momento sulle loro spalle, hanno fatto. L'incontro è durato in tutto 40 minuti e dobbiamo tornare a chiederci, al di là di quello che posso pensare io, perché la mia è un'ipotesi. Ecco, le differenze sono state superate, sentiamole queste differenze, perché bisogna prenderne atto per capire come poi le persone, sia che sia uno il Presidente degli Stati Uniti e l'altro il Papa, continuano a mantenere i loro sentimenti. Sentiamo. Una persona che pensa soltanto in fare muri sia dove sia e non fare ponti non è cristiano. Ecco, questo lo ricorderete, il commento del Papa durante la campagna elettorale americana. La risposta di Trump a questo commento fu disgraceful, vergognoso. Nessuno, certo non un leader religioso, può criticare o mettere in dubbio il credo religioso di un'altra persona. Ecco, parole polemiche a distanza. Questo era il dialogo di allora, moderato però da una dichiarazione di Papa Francesco nel recente viaggio in Portogallo. Ha detto, noi parleremo, le tematiche emergeranno, ma c'è una cosa che voglio dire, io non mi sono mai permesso, non mi permetterò mai di giudicare una persona prima di averla incontrata. E Donald Trump è un charmer, come si dice, Donald Trump è una persona che poi è in grado di trasmettere i suoi messaggi, sono sicuro che fra i due questo ponte si è costruito. Ecco, detto questo le differenze ci sono le differenze dei ruoli, perché Trump in questo momento, vi dicevo, è a Bruxelles, nell'incontro con la NATO chiederà agli alleati di pagare il contributo che devono pagare per le spese sulla difesa, chiederà un impegno NATO per combattere militarmente il terrorismo. Insomma, sono tempi di guerra. E per quanto il messaggio del Papa sulla pace, sulla non violenza sia centrale per la Chiesa cattolica, c'è da chiedersi quanto questi macellai dell'ISIS siano pronti ad ascoltarlo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarlo su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Torniamo a Roma, prima tappa occidentale del viaggio di Donald Trump. Tappa romana, Quirinale, visite a Villa Taverna con Gentiloni e soprattutto al Papa, e dunque di Elvis Presley, Heart of Rome, cuore di Roma. In a little while you're leaving, starting on the journey home. Soon I'll be alone, the one who loves you, la la la la la. Somewhere in the heart of Rome, I'll make New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!